L'ultima Duna è l'ultimo romanzo noir di Cesare Battisti, scritto dal carcere di Ferrara, e che qui affrontiamo in maniera diversa e un po' obliqua, parlandone con l'avvocata di Cesare Battisti, Marina Prosperi, a cui do la benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Marina. Ciao, vi ringrazio per l'invito. Allora, intanto ti chiedo, per entrare nell'argomento, un po' di cosa parla questo romanzo a grandi linee. Il romanzo sicuramente rientra nella letteratura di genere, anche se non so se Cesare vorrebbe che fosse definito noir. Lui piace sempre la definizione di romanzo sociale. Forse il suo romanzo, e questo in particolare, si va più a inserire in questo tipo di definizione letteraria. Ma come hai detto, io sono un'avvocata, quindi sono un po' qui in preda della sindrome dell'impostore e cerco di dare in qualche modo una indicazione rispetto magari ad una materia che non è propriamente la mia. Di che cosa parla questo romanzo? È la storia di una persona che è di fronte ad una vicequestore che lo sta interrogando perché è stato catturato ed accusato di un delitto. È un interrogatorio particolare perché questa persona ha dei problemi, diciamo, di ricordi, cioè non ricorda una parte importante della sua vita. E qui infatti l'interrogatorio tesse una serie di fili e riesce comunque a in qualche modo captare un ricordo che a quel punto lascia la questura di Brindisi, dove si svolge appunto questo incontro tra quest'uomo e la vicequestora, e comincia a spaziare in scenari importanti, cioè la rivoluzione curda, Kobane e combattimenti che si sono, diciamo, svolti per la liberazione di questi territori. Ed infatti, diciamo che il libro è in qualche modo disegna proprio quello che accade a Kobane durante i giorni delle battaglie contro il califfato, l'ISIS, la presenza dei, diciamo, combattenti internazionali nazionalisti e la formazione delle donne curde in lotta. E al tempo stesso poi un'altra costola, diciamo quasi uno spin-off di questa storia, riporta invece alle tratte dei migranti dalla Libia, passando attraverso i centri di detenzione e alle lunghe traversate verso l'Italia. Quindi è la storia praticamente di quest'uomo, questo ricordo delle battaglie, questo ricordo della sua esperienza nei lager libici, che in qualche modo vengono sollecitati da questo interrogatorio formale. A un certo punto compare, diciamo, la figura di una bambina, e però non posso raccontare diciamo proprio tutta la storia, perché andremo molto in là, però questa bambina diventa in qualche modo, diciamo, la figura che collega tutte queste tele. Una volta che la vicequestore capisce questa cosa, ovviamente prende in mano l'interrogatorio e conduce il filo di questo racconto. Come dicevi, tu ti sei occupata più che altro della parte legale di questo libro. Ti va di raccontarci il viaggio dal dentro al fuori, dal tuo punto di vista? Io prima di tutto prima di raccontare della mia esperienza, vi voglio leggere i ringraziamenti, cioè vi voglio leggere l'ultima parte del libro, perché è la voce di Cesare, che dice: ho scritto questa storia al chiuso di una cella, disponendo di carta e penna. Solo verso la fine della stesura ho potuto disporre di un PC, privo però di collegamento internet. In queste condizioni non avrei potuto trattare coscienziosamente temi così spinosi come quello della narrazione della nazione curva e dei drammi sulle rotte dei migranti, facendo evolvere i personaggi attraverso tre continenti senza ricevere documentazione dall'esterno. E perciò solo grazie alla costante ed energica collaborazione di tanti amiche e amici che mi è stato possibile supplire gli impedimenti personali, oltre agli incidenti intercorsi durante i cambi di prigione, con smarrimenti di materiali e capitoli del libro poi interamente riscritti. Ringrazio Valentin, Charlene, Ivea, Priscilla e Domenico, i quali, in quanto membri della mia famiglia, hanno reso possibile il contatto con tutta la formidabile equip editoriale. Tra loro sono da ricordare Gio Vargas, Ilaria Gobbi, Jack e Charlie di Montreuil, Giulio, Marietta Arnaud, Davide Grasso per il suo Evan, Valerio Evangelisti, Pinuccia Cane, Floriana Salis, Serge Quadrupiani, Jay Mu, Gianfranco Sollai, Marina Prosperi, Alfredo Simone, Magno De Carvaio. Infine sì, Bilbo Schulenburger, scrittrice e presidente della Onlus Artisti Dentro, senza la quale questo romanzo non avrebbe probabilmente trovato editore in Italia, Giancarlo Caselli, appunto, che ha avuto il coraggio di editarlo e pubblicarlo. Questa quindi è la storia un po' del libro attraverso i suoi personaggi. I suoi personaggi quindi sono lo scrittore detenuto che passa da carcere a carcere e con un passaggio di scrittura molto difficile, perché non è semplice. Cesare ha dovuto fare una battaglia legale per ottenere l'uso del PC in cella. La prima parte di questo romanzo è interamente scritta a mano nel carcere di Rossano in Calabria. Dopodiché, quando lo incontro io, Cesare è nel reparto AS2, sorvegliati speciali del carcere di Ferrara. E diciamo, il mio incontro con lui è un incontro che dal punto di vista giuridico tende ad ottenere un obiettivo che poi per fortuna è stato raggiunto, cioè quello della declassificazione. Infatti da un regime di sorveglianza speciale è stato trasferito adesso al carcere di Parma come detenuto tra virgolette di media o normale pericolosità, e quindi l'obiettivo legale, uno degli obiettivi del nostro lavoro è stato raggiunto. Ma al tempo stesso mi chiese, e spiazzandomi molto al momento del nostro incontro, di aiutarlo con l'editing non soltanto dell'ultima Duna ma anche di una serie di racconti, perché lui svolge questa attività di editing per l'associazione Artisti Dentro e quindi cura appunto i racconti dei detenuti di altre carceri. E quindi mi sono trovata in qualche modo a passare a Sibyl dell'associazione Artisti Dentro, perché io ero l'unico contatto autorizzato, stiamo parlando di un'attività completamente autorizzata da parte della direzione, ero comunque l'unico contatto di Cesare che fosse autorizzato a portare fuori delle carte scritte da lui e soprattutto dei dischetti trascrivibili. E quindi ho avuto modo di leggere non soltanto l'ultima Duna nella sua stesura prima dell'edizione e successivamente poi nel libro editata, ma anche i racconti di questi altri detenuti, e quindi sono stata in qualche modo proiettata in un ambito editoriale a me totalmente sconosciuto e molto molto particolare. Il libro è venuto fuori con me per mesi. In tutto questo passaggio di dischetti vedevo proprio diciamo in forma plastica questo libro che cresceva attraverso questo passaggio di mani tra me, la guardia carceraria, l'ispettore Cesare e poi di nuovo l'ispettore che mi faceva firmare la domandina nella quale c'era l'autorizzazione, e poi di nuovo dato alla guardia per il controllo, poi di nuovo dato a me e poi portato fuori. Ecco, diciamo che ha una storia editoriale molto molto particolare questo libro. Bello, quindi grazie per averci raccontato un po' la nascita e la crescita di questo libro, perché vederlo così, insomma, stampato e nel formato finale un po' semplifica la complessità e la bellissima storia che ha dietro. Quindi grazie, e sei stata preziosissima anche per noi per questa intervista, quindi ti ringrazio moltissimo per essere stata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ecco, io a nome di Cesare ringrazio voi e vorrei veramente fare un invito all'acquisto di questo libro, che non è soltanto acquistare un libro, secondo me anche un'operazione di solidarietà e vicinanza rispetto ad una storia, e la sua storia individuale ma anche un po' la storia degli anni 70, della incapacità e dell'impossibilità di risolverli in maniera pacifica nel nostro panorama. Cesare è un intellettuale detenuto che ha molte difficoltà in questo momento a svolgere la sua attività, la sua professione. In quest'ultimo passaggio di carcere nella sua cella non c'è neanche la presa elettrica, quindi non può attaccare il computer, quindi sta scrivendo un altro libro in forma cartacea, ma è una persona attiva, una persona che esiste ed è anche una persona preziosa. Quindi al di là di quelle che sono le cronache, le orribili foto di lui che viene mostrato come un trofeo a fianco a due ministri del precedente precedente legislatura, direi che, non lo so, a me questo libro è piaciuto tanto e voglio molto bene a Cesare e penso che abbia diritto a riposizionarsi nel panorama degli intellettuali, sia internazionali a cui appartiene, ma italiani. Grazie davvero ancora e appunto rinnoviamo anche il tuo invito ad acquistare questo libro, L'ultima duna di Cesare Battisti. Grazie e grazie. Un grande saluto. Grazie a voi, un abbraccio, grazie.